Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni. Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca! Polveri. Radio Bomba. Buonasera e benvenuti alla decima puntata di Fuoco alle Polveri. Ciao Lore. Ciao, ciao Guidino. 10 come i 10 comandamenti. Assolutamente. LOL. È andata così oggi. Malissimo, oggi malissimo. E, come dicevo, sono molto contento del mio nuovo a reggi microfono che cala dall'alto. È molto bello. Sì, molto finalmente bello. Non ho il torcicollo che avevo prima. Beh, scocciato sulla destra. Sì, molto bene. Un'ottima cura. Allora, iniziamo subito con un aggiornamento del Totomorti. Che dici? Sì. Sono arrivate 9 squadre? Sì. Allora, Ema ci manda Vittorio Cecchigori, Gino Paoli e Paolo Villaggio. Grande Gino Paoli, che era già stato nominato da se stesso quando si provò ad uccidere, poi vive questa seconda nomination. Sì. Ma anche Paolo Villaggio, niente male. Paolo Villaggio. Sarà il più felice di quelli tra i tanti a scoprire che è stato nominato, sicuramente. Il nostro amico Alberto ci manda invece Maurizio Costanzo, che è seduto sul divano e guardando la moglie al Sanremo gli piglia un coccolone. Sicuro. Non solo lui, probabilmente. Solo lui. Intanto, anche a noi. Succederà qualcosa di brutto. Bruce Willis. No. A tutti un po' ci dispiace. Per Bruce Willis. Ma poi Giorgio Napolitano. Che dopo le elezioni, appunto, devastato dal risultato delle prossime elezioni, anche lui si accascerà a terra e basta, questi sono i tre. In più ha mandato un bonus che è Edin Dzeko per il nostro amico e cantastore Pizzo, che immagino c'entri un fantacalcio. Chiaramente. Okay. Invece il nostro altro amico Fabrizio ci manda, se non si dovesse capire il motivo poi ce lo spiega Guido. Sì, certo. Andrea Agnelli, Giuseppe Marotta e Pavel Nedved. Perfetto. Tre gobbacci. Sì, i capi dei gobbi. I capi dei gobbi. Bene. Ok, allora, visto che stiamo a parlare di morti col nostro fare macabro di ogni lunedì, direi di anche ricordare due morti che ricorrono oggi. Sì, uno è del ricorrenza del 30 gennaio però del 1948, in cui spararono a Gandhi, Mahatma Gandhi. Ecco, questo è the first big one. Sì. Senti, questo è international oggi. E io invece ricordo il 30 gennaio del 1649, quando Carletto I d'Inghilterra ha perduto la testa. Perfetto. Anche lui sparato? No. Decapité. Decapité. Bravo. Ha studiato, bravo. Grazie. Allora, io direi, in memoria di questa morte reale, mandiamo un bel pezzo che non so chi vi ha consigliato. Sì, c'è stato consigliato il nostro amico Alessandro, un grande bassista e anche grande ascoltatore di Fuoco alle Polveri. Sì, quindi, che ci ha mandato pure la squadra. Ricordiamo. Sì. Quindi, Royal Blood. Sì, via. nascosto lassù come una zecca tra i peli di un cane. Sei ferito e stai sanguinando. Non ho tempo di sanguinare. Bene. There's a war coming down between my breasts and mine. I don't want no war. Going down tonight. Stop this. E rieccoci qui. Rientriamo. Super pezzo, eh. Tra l'altro, ringraziamo per il consiglio. Ringraziamo per il consiglio, assolutamente. Tra l'altro, i Royal Blood sono basso e batteria. Sì. Punto. Sì, sì, sì. E non sembrerebbe. Ah, così forte. Distorsioni. Sì, sì. Senti, è casino. Fanno fatto due. Pezzone. Insomma, quindi bello. Sì, Royal Blood in onore di Carlo I. E tra l'altro è nel pantheon delle ricorrenze della Chiesa anglicana, sai? Ah, ok. Sì. Bello. Vogliamo adottare altre di questo personaggio che stanno nel pantheon della Chiesa anglicana? Oppure no? Dire altro di lui, dici? No, altri personaggi sono in questo pantheon. No, in questo momento no, perché non sono preparato. No, dico in generale. Magari in futuro sì. Vedere la Chiesa anglicana come nostro riferimento religioso. Ah, sì. No, no, no, direi proprio di no. Ci ho provato, poi. No. Ai 10 comandamenti della Chiesa anglicana alla prossima puntata. Ok, va bene, approfondimento religioso. Va bene. Fantastico. Andiamo a parlare di cose invece un attimino più vicine a noi? Sì, abbastanza. Più di Carlo I di sicuro. Più di Carlo I di sicuro, sì. No, oggi volevo raccontare quello che è successo poi quello che è successo. Sì, una notizia che è uscita qualche giorno fa, il 27 di gennaio, quindi venerdì, insomma, giovedì, venerdì. Commentarla. Sì, commentarla, perché è arrivata una notizia in realtà su tutti i media mainstream. È apparsa. Sì, infatti, facciamo una premessa. Io, ne parlavamo giusto oggi, appunto. Io so questa notizia soltanto da... Ho visto, non ho avuto modo, non c'ho internet a casa in questi giorni, quindi l'ho vista solo in televisione. E mi è arrivato un certo tipo di notizia. Sì. Sì. Poi ne abbiamo discusso e invece veniva fuori tutt'altro. Quindi direi che io faccio un po' la parte dell'ascoltatore non l'ascoltatore medio, il pubblico, insomma, medio, insomma, in generale l'italiano che si informa magari attraverso il telegiornale delle 20 e la homepage di Repubblica.it. Esatto. Quindi io fondamentalmente sono a quel livello lì in questo momento. Ok. Ho bisogno e tu mi... No, ma semplicemente la notizia è questa. Vi leggo l'ANSA. La polizia di Stato di Modena ha arrestato due esponenti nazionali di spicco del sindacato Sicobas, ritenuti responsabili di estorsione aggravata e continuata nei confronti di un noto gruppo industriale del modenese. Bene, io so questo. Cioè, ecco, dai telegiornali usciva questo. E questa, infatti, notizia anche ti fa saltare subito all'occhio. Cioè, porca miseria. Cioè, cazzo, un sindacalista del Sicobas, estorsione, cioè roba pesante. In realtà poi Aldo Milani, questo è il nome del sindacalista, è un sindacalista. Qui dice già due sindacalisti arrestati di spicco del Sicobas. No, è solo uno, l'altro è un altro personaggio che non c'entra niente con il Sicobas, anzi è un lavoratore di un'azienda che poi lavora in appalto a questa azienda, il modenese, che ora poi vi diciamo qual è, e che in realtà era un intermediario tra il sindacalista e l'azienda con cui dovevano. Quindi non è un sindacalista. No, e infatti già lì, vabbè. E il fatto è stato questo. C'è stato un video fatto direttamente dalla polizia e poi diffuso, in cui Aldo Milani riceve in mano una busta di soldi fondamentalmente. Okay. Nel momento in cui la riceve in mano, gli salta addosso, cioè arriva la polizia e lo arresta. Arresta lui e l'altro tipo, questo intermediario. Ok. Estorsione aggravata, perché sembra che Aldo Milani abbia chiesto all'azienda che è Livoni. Vi ricordate l'azienda Salumi Livoni? Livoni. Levoni. I salumi del modenese, che ha licenziato 55 dipendenti. I Sicobas hanno, cioè questi dipendenti sono andati poi all'INPS, insomma, a richiedere la disoccupazione. È venuto fuori che l'azienda Levoni, non aveva pagato i contributi a questi lavoratori e quindi questi non potevano ottenere il sussidio di disoccupazione. E allora il sindacato è andato direttamente all'azienda dicendo: dovete versare i soldi. Per i contributi, quindi qualcosa gli spetta. Esatto, dei contributi, okay. Ma non ha detto a me direttamente, io sindacalista, all'INPS, versateli e noi finiamo la protesta, perché questi lavoratori poi potranno avere almeno il sussidio di disoccupazione. Ecco, da qui è stata fondamentalmente, sembra, poi vedremo come andrà a finire, certo. Però sembra architettata una trappola in cui da questa richiesta del sindacato sono stati invece dati direttamente in mano, da parte di questo intermediario dell'azienda, al sindacalista dei soldi la polizia era a fare un video, il video è stato poi diffuso. Cioè parrebbe un tranellone. Un tranellone. Cioè quantomeno il punto grave, secondo me, è che se tu guardi solo il telegiornale hai solo la questione che c'è due sindacalisti che hanno cercato di, insomma, hanno preso bustarelle, no? Sì. Quindi una cosa gravissima. Sostanziosa, e intascate a spese dei lavoratori, quindi sì, una cosa gravissima. Poi in realtà se si va a un po' a spulciare, a spulciare un pochino, vediamo te, che ci sono appunto quantomeno versioni diverse che sono anche abbastanza clamorose. Infatti ovviamente poi Aldo Milani è stato liberato due giorni dopo perché i fatti non sussistevano, nel senso poi appena si è messo di mezzo l'avvocato, eccetera, no, certo, eccetera, poi è tutto, si è tutto sgonfiato. Poi vedremo, probabilmente ci sarà un processo. Però si è fatto la gatta buia. Comunque. Due notti, insomma, quindi di cui anche la prima è stata abbastanza tensione perché in realtà nessuno sapeva niente. Quindi è stato arrestato uno dei capi di un sindacato che stava facendo una mobilitazione davanti all'azienda, è stato arrestato senza dire niente a nessuno, quindi c'è stata anche manifestazioni spontanee, un po' di tensioni in giro per tutto dei lavoratori proprio, sì, dei lavoratori del Cicobas, cioè. Sì, sì. Comunque, come al solito, i nostri mezzi di informazione nazionali ci deludono, anche perché al di là del fatto che non abbiano dato le varie cose, anche, hanno sbagliato anche solamente il fatto che non tutte e due sono le sindacaliste. Ah, sì, sì. Ora, se sei un giornalista serio e ci devi fare informazione, devi darci le informazioni giuste. Quantomeno. Quantomeno. Vabbè, quindi, comunque insomma, questa era una, il nostro insoldone, una nota, oggi, no. Sì, un po' un insoldone su... Poi mi fa ridere che si parla, parlano tutti di post-verità, no? È un po' la parola chiave del mese. Sì, infatti. Sì, è vero, un pochino, si è aperto l'anno con questa discussione, sì, sulla, sì, verità, basta, sul web. Che cazzo io è io ho un amico, ho un amico che ci sta facendo una tesi, vedi? Si fa una tesi, ma lui fa l'accademia e sta facendo una tesi più o meno su questo argomento, sul, cioè, relativismo generale dell'informazione. Mi sembra che il relativismo sia anche di quelli che accusano il popolo di usare in notizie false, eccetera, eccetera. Certo. Mi sembra che siamo un po' allo sbaraglio. Un po' allo sbaraglio, sì. Senti, ci fanno forse sentire un nuovo pezzo dalla regia e poi andremo con le nostre rubriche. Sì, sì, sì, sì, fantastico. Mandiamo un pezzo dei cazzo. Mandiamo un pezzo dei cazzo. Tra l'altro una versione live molto bella dei cazzo, che si chiama Siamo tutti buoni. Facciamo finta di volerci bene, come è vero il tuo sguardo solidale, le mie parole giuste, siamo tutti buoni, siamo tutti buoni, sento nell'aria odore di Marte, mi sputo addosso e strillo più forte, vagheggiate un mondo migliore, ma state bene nel vostro squallore. Intrattengo inconcludenti rapporti di interesse vago con persone false come me. E cosa ci guadagno? Forfora e gastrite. Forfora e gastrite. Sento nell'aria odore di Marte. Mi sputo addosso e strillo più forte. Siamo un mare di disperati. Allora perché continui a vivere? Forse perché hai ancora un po' di curiosità. Ma proprio poco ormai. Ti sputo addosso e strillo più forte. Più forte. Thank you, my blessed Abba, thank you. È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. E rieccoci qua. Sì, sì, sì, sì. Ci siamo? Yeah. Oh, senti, iniziamo lo yeah così a caso. Con le... come potremmo iniziare con le rubriche, visto che comunque... direi al momento sì. Sì, assolutamente. La prima qual è? La prima è due pezzi e core come al solito. Sì, è due pezzi e core. Dai, sigla. È arrivato Nico? Forse sì. Sì. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Due pezzi e core. Donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore. Sarebbe bello se adesso tutti quanti cantassimo, però non so quanto. Se vuoi lo facciamo. La sapete tutta? Sì, sì. Abbastanza. No, tipo adesso. Falle sentire importante dalle meglio della tua crudeltà. Prenta adesso come romante, ma fuori dal letto nessuna pietà. Insomma, oggi finalmente sono arrivato adesso. Ciao Nico. Ciao, grazie. Ciao. Sono arrivato all'ultimo. Ti sento trafelato. Le scale. Insomma, le scale quelle armoniche. Insomma, sì, sì, oggi certo. Sono. Oggi vorrei riportare questa mia rubrica al senso primigenio che gli abbiamo dato, e cioè parlare di canzoni d'amore come all'inizio. Abbiamo divagato. Nel tempo a vari discorsi, perché a volte mi faccio prendere dalla passione, quindi... Giustamente, io non me ne ero accorto, per esempio. Comunque, ritorniamo a parlare d'amore come un bel tempo. Oggi mandiamo un pezzone che è Una ragazza in due, che è una canzone che forse qualcuno conosce, non è delle più sconosciute che ho mandato, sicuramente, anzi, delle più celebri. È un pezzo dei Giganti. I Giganti sono un gruppo... milanese storico degli anni 60. Sono un gruppo veramente veramente tanto milanese. Oggi entrambe le canzoni sono canzoni prettamente milanesi. La prima è questa qui, appunto, dei Giganti. La seconda sarà un pezzo anche in milanese di Iannacci, molto molto bello. Sono su sensi e idee diverse dell'amore. Questa canzone qui in particolare è del 65. Cosa strana, tra l'altro, entrambe le canzoni, sia questa che la prossima, sono dello stesso anno, sono del 65. Questa qui che vi mando adesso, che è appunto Una ragazza in due, in realtà è una cover di Down Came the Rain di Robin Conrad e Mitch Murray, che è uscita poi incisa da Murray con il nome di Mr. Murray. Il testo italiano l'ha fatto Leo Chiosso, che è quello di cui si parlava, se vi ricordate, un po' di tempo fa, grande amico di Buscaglione, grande... Ah, sì, mi ricordo. Facce pietrificate, non mi voglio fare i compiti. Sì, sì, sì. Questo è Leo Chiosso. Le compiti. Un bel, grande autore di canzoni italiane di sempre. Una tra queste, appunto, è questa, è uscita in un 45 giri, appunto, nel 65, insieme a Lezioni di ritmo. I Giganti, per chi non lo sapesse, sono quelli che sono diventati famosi con quel pezzo che si chiamava Proposta, che è quello mettete i fiori nei vostri cannoni. Questa è la nostra proposta. Questo non ce l'ho, ragazzi. Dai, pezzo. Che dopo. Comunque, diciamo, la canzone in generale è la storia di due che si contendono la stessa amata, però poi viene un po' a realizzarsi come se fosse un dibattito, una diatriba filosofica su come bisogna trattare l'amore, se vince quello che si spende del tutto per la sua amata oppure quello che si tira indietro, come dice Teorema, no? Dice prendi una donna, trattala male e vedrai che ti amerà, chi meno ama è più forte, e l'altro invece gli dice col cazzo io la amo e le faccio vedere tutti i giorni che mi ama e poi forse però lo prendo lì, insomma. Ok. A me è una cosa che fa molto ridere, però è un argomento caldo dei discorsi tra amici, no? Tutte queste cose anche adesso per come si possono essere evoluti i rapporti o gli approcci tra uomo e donna, quella cosa tipo non riscriverle dopo un tot di giorni, aspetta se ti fai sentire, se non ti fai sentire, queste lucubrazioni sulle tattiche. Vabbè, insomma, questo... Mandiamo questo pezzo molto divertente. Sentiamo d'amore. Una ragazza in due, i gigantissimi. Ormai ama me e se verrà le parlerò carezzandola, certo che il mio amore capirà e poi mi dirà che ci sta. Il suo amore è un miracolo, quindi qui da me lei verrà, perché solo a me amerà. Insomma, spero che ci siamo fatti un'idea su queste dinamiche. Abbiamo una donna in redazione, quindi volevamo chiedere, ma quindi qual è l'approccio? Cioè, già, come si risolve la cosa? Bisogna stargli dietro, dimostrare affetto, oppure davvero chi non ama è più forte, si sa? Ma se ve lo dico, che gusto c'è, ragazzi? Magari non lo so nemmeno io. Dannate donne, la loro cripticità. Chi le capisce è bravo. Sempre così. No? Mai una risposta chiara. No, ah, è così, è così. Insomma, il mondo sarebbe bellissimo. Certo, sarebbe troppo facile. Insomma, andiamo avanti. Parliamo, portiamo questa nuova canzone, poi vi dico come si chiama, vi dico innanzitutto chi la fa. E la fa Vincenzone Iannacci. Pace all'anima sua, è morto 4 anni fa, nel 2013. Un inaspettabile, tra l'altro, fu proprio una di quelle morti inaspettabili, anche se comunque era bello cresciutello, diciamo. Cantante, musicista milanese, ve ne parlo un pochino perché le idee su Iannacci sono un po' confuse per chi non è appassionato, diciamo, di musica italiana, così come di Gaber o di certi personaggi che magari hanno vissuto un periodo televisivo che però li ha fatti passare al grande pubblico come dei cantanti di varietà, invece magari avevano tutta una loro poetica. Certo. E anzi erano dei militanti intellettuali del secondo dopoguerra molto importanti. Iannaccione è proprio uno di questi. A me fa molto ridere, un personaggio a cui sono molto molto affezionato, perché veramente era un gran simpaticone. Tra l'altro, uno dei più grandi meriti, se una persona va a cercare su internet un po' la storia di Iannacci, dei suoi meriti musicali è stato quello di portare il rock, nessuno se lo aspetta, ma Iannacci è venuto, cioè è stato tra i primi a portare il rock and roll in televisione, è stato come Celentano. Lui e Gaber avevano un gruppo, si chiamavano i Due Corsari, e loro hanno fatto Tintarella di Luna la prima volta, poi fu rifatta da Mina, non era stata scritta da loro, non mi ricordo, però comunque i primi ad interpretarla hanno fatto, sono loro. Sì, hanno fatto grandi pezzoni rock and roll, ma proprio rock and roll come, come il vero rock and roll, insomma. Insomma, la cosa divertente è che lui era un medico, cioè magari qualcuno non lo sa, però Iannacci nel 67, dopo che si era già laureato, già diplomato al conservatorio in composizione, direzione d'orchestra, 8 anni di pianoforte, un musicista oramai bello rodato, bomba. Si laurea comunque, dopo che era diventato un personaggio, si laurea in medicina nel 67 a Milano e va in Sudafrica a fare la specializzazione in chirurgia. Cioè questo matto, che poi se una persona sente una canzone qualunque di Iannacci, la prima che viene in mente è Vengo Anch'io. Certo. Sentite l'edizione originale, lui è un pazzo, il ritornello lo canta Vengo Anch'io! Ah, sì, è vero, è vero. È una cosa folle. Tu pensa, questo qui era un chirurgo. Cioè, ti immagina che terrore doveva avere. Deve avere la mano ferma, non la. Vai a fidarti dei chirurghi. Vatti a fidare veramente. Poi chissà che gente. L'importante ti capi. È che ti usci bene, no? Alla fine sì. Vai a sapere. Insomma, tra l'altro, tra gli esordi. Di Iannacci c'è stato. Lui è partito come musicista a suonare basta, prima con Tony Dallara, poi è entrato nel gruppo di Celentano e suonava il piano con Celentano, faceva i pezzi con lui. Poi ha fatto questo gruppo con Gaber, i Due Corsari, sono diventati molto famosi in Italia, nelle radio tantissimo, andarono anche in televisione. E poi lui si mise a fare il solista. Nel frattempo continuava a suonare, a cantare con Gaber, però ha iniziato a fare anche il solista con canzoni pazze, di una comicità surreale, folle, che a mio parere, cioè almeno a me, ricorda tanto gli Schiantos. Chiaramente al contrario, è una sorta di antecedente della demenza. Lui la chiamava genere schizzo, schizzo come schizofrenico, con una sola Z, cioè. Sì, sì. È molto bello, è un tipo di comicità molto bella. Suo padre era partigiano, poi in realtà, a parte i suoi pezzi, appunto quelli più divertenti, la maggior parte dei quali poi furono scritti con Fo, che era un suo grande amico, con Dario Fo. Beh, dai. Tipo, ho visto un re, sarà vi scusa? Quella sì, è sì. Sempre allegri, cioè, bisogna stare. Loro due l'hanno scritta. Penso anche Gaber. A parte questi pezzi più divertenti, lui ha scritto tanti pezzi molto, molto poetici, legati alla sua città, legati alla resistenza, sempre su personaggi ultimi, su poveracci, sfortunati e presi a calci dal mondo e dal destino, diciamo. Una cosa molto divertente che ho scoperto di Iannacci è stato praticamente lui nel 66, cioè un anno dopo che esce la canzone che portiamo adesso, che è Veronica, che è una canzone scritta appunto da Dario Fo e Sandro Ciotti, altro Sandro Ciotti. Buonasera amici sportivi. No, non lui. lui. scritta da loro due. Il pezzo si chiama Veronica, poi ne parliamo. Comunque l'anno dopo fa uno spettacolo teatrale scritto a quattro mani insieme a Fo, che si chiama 22 canzoni, in cui presentava anche pezzi propri. Uno di questi pezzi si chiama La mia amorosa la va alla fonte. È un pezzo che lui aveva scritto questo testo su una base musicale che era una canzone del 1400. Addirittura. Italiana, di cui aveva ritrovato gli spartiti e aveva riarrangiato. Lei milanese. Pochi anni dopo, lui milanese, pochi anni dopo De André scoprì questa canzone e riusò la stessa parte, la stessa musica, per farci Via del Campo, credendo comunque di attingere dalla fonte quattrocentesca. Poi in realtà scoprì che Iannacci aveva rimanipolato quello spartito e l'aveva... Quindi già in realtà fatto, De André aveva plagiato Iannacci, si sono messi d'accordo e alla fine De André ha riconsegnato i diritti, ha ridato i diritti a Iannacci, quindi la musica di Via del Campo l'ha scritta Iannacci. Ah, a tutti gli effetti oggi. Alla fine dei conti è andata così. Sì, è una cosa interessante anche perché i due artisti di tematiche sono molto molto vicini da questo punto di vista. Quindi, cioè sono molto vicini agli ultimi, molto vicini ai veri poveracci. Poi chiaramente c'è meno studio e filologia dalla parte di Anna, c'è più presa di cuore quella realtà piegata, diciamo, la realtà degli ultimi è presa più. Quindi è finita in amicizia. Spassionata. Sì, sì, no, super amicizia, super amicizia. Sono presi a schiaffi. Rispetto. Perfetto. Grande rispetto. Insomma, il pezzo che porto oggi si chiama Veronica, una canzone che a me fa ridere in una maniera infinita, è bellissima e descrive una situazione fantastica. Il motivo per cui la porto dopo la canzone che abbiamo visto prima è che di fronte a quell'amore su cui tanto si lucubra e su cui tanto, per cui tanto ci mordiamo le unghie sui vari metodi, i modi per approcciarci oppure no, qui si parla di persone che l'amore come il sesso lo incontrano sbattendoci contro, tante domande non se le fanno, diventano realtà che vengono subito metabolizzate, ci si sbatte contro le donne, prima o poi ci fai i conti, non è mai un grande pensiero come sono adesso, che poi sono pensieri molto più piccoli invece di quelli che fa questa gente. Ed è la storia di una donna di tutti, di una donna di quartiere che fa l'amore al buio nei cinema con i ragazzini. Veronica, davi il tuo amore per una cifra modica al cinema in pe. In pe cosa vuol dire? Bellissimo perché comincia la canzone con il coretto e fa in pe, così, in pe vuol dire in piedi. E dà proprio l'idea al cinema in piedi con questa tipa, ed è bellissimo il testo, c'è una ma è veramente, ha dei punti di stile, di poesia magici questo testo. Dice un ritornello, dice: mi ricordo ancora come un primo amore, lacrime e rossore fingesti per me, mi lasciasti fare senza domandare quello che io pensassi di te. E poi dirà: Veronica, il primo amor di tutta via canonica, con te non c'era il rischio del platonico. Veronica, con te non c'era il rischio del platonico, le mie frasi preferite. Applauso. In assoluto, sempre. Veramente. La sentiamola e divertiamoci tanto, perché poi l'inizio, questo coretto del impe, e lei, è come se lei anzi gemesse durante l'atto, capito? Al cinema, al buio, in questa situazione. Bellissimo. Ebbene, ascoltiamoci questo pezzone di Annacci, sempre del 65, Veronica. La musica sinfonica, ma la suonavi con la fisarmonica. Veronica, perché? Veronica, se non mi sbaglio, stavi in via canonica. Dicevi sempre, io voglio farmi monaca, e intanto bestemmiavi contro i preti. Ti ricordo ancora tu, come un primo amore, lacrime e rossore, fingesti per me. Mi lasciasti fare, senza domandare, quello che io pensassi di te. Amor di tutta via canonica, con te non c'era il rischio del platonico, Veronica, con te. Veronica, da giovane per noi eri l'America, il tuo amore per per una cifra modica al cinema. Cosa comoda, è il luogo certo, era il più poetico, al cinema, in pepa. Ti ricordo ancora, come un primo amore, lacrime rossore, fingesti per me, mi lasciasti fare, senza domandare, quello che io pensassi di te. Lasciasti fare senza domandare al cinema. Insomma, abbiamo sentito questo pezzone, spero vi sia piaciuto. Assolutamente. Fa ridere tanto, ma poi una bella fotografia di Milano tra questi due pezzi. Tra l'altro i giganti prima si chiamavano tipo i Genga Friends, cioè i Genga è proprio, sono proprio... E anche il pezzo che stiamo sentendo qui sotto di Nanni Svampa, un cantante che ha ripreso tanta musica popolare lombarda. Una canzone bellissima. Sentiamo solamente il ritornello, una persona presa, portata in carcere, picchiata. 40 di 40 not a San Vitura c'ha pai bot, dormi de campi in de malat. Mami, 40 di 40 not, spatu de giù, mi son de quei che parlen no. Cioè, mi son de quei che parlen no, cioè che non parlano, che non fanno i nomi, picchiatemi, mami, 40 di 40 not. Insomma... Evviva Fuoco alle Polveri, evviva grazie, Radio Nico. Wombat, davvero, ci grazie. Sentiamo la prossima volta. Splendente come al solito. Mua. Mua. Ciao. E me diceva i tuoi compari, noi li pigliasse senza de te. Ma... Dubbi e sicore, dubbi e sicore. Senti un po', ma a te piace? Non lo so, non è male, ma io l'avrei preferita più... Sì. Non so, più... Sì. Più... Più anch'io. Ecco. Più anche te? Come? No, dico più anche te? Sì. Bravo. Va bene. Domande e risposte a caso. Assolutamente. Perché veramente oh, finalmente abbiamo sentito una parlata del nord. Finalmente. Cioè, ora, finalmente. Non è che io aspettavo la parlata del nord, però... Vabbè, alla fine. Per diversificarci un attimo. Andiamo avanti? Sì, certo. Io proporrei di fermarci qui. Oppure fermiamo tutto e chiudiamo tutto. No, andiamo avanti. Mi infilo sempre in dei discorsi. In un ginepraio assoluti. Vabbè. Comunque adesso vediamo il nuovo ginepraio. Che oggi, mentre ti raccontavo questa cosa di Hobbes, a un certo punto tiravo fuori di una sorta di orologio che segna sì. la durata del mondo. No. Ok, no, non capito un cazzo. Me. Non hai capito un cazzo, ma so che ora mi distruggerai con mille domande. Ma va bene, io sono piuttosto pronto oggi. Bene. Stiamo a vedere. No, allora, ti raccontavo praticamente il Doomsday Clock, che è un orologio immaginario che fondamentalmente quindi va da 0 a 12, quindi dalla nascita dell'uomo alla sua distruzione, alla mezzanotte, che sarà la sua distruzione, l'Apocalisse. Ok. L'Apocalisse intesa come fine dell'uomo. Non biblica. Bene. Ma fisica. E fondamentalmente è una commissione che è nata durante la Guerra Fredda a Chicago. Questa commissione di scienziati fondamentalmente cerca di tenere alta l'attenzione sul fatto che ci stiamo autodistruggendo. Okay. Tramite, è nata durante la Guerra Fredda, quindi il problema principale era chiaramente l'armamento nucleare, cioè quindi la possibilità di uno scoppio in una guerra nucleare portava inevitabilmente alla mezzanotte dell'umanità. Sì. Poi le problematiche in realtà sono molto più ampie, perché si legano chiaramente all'ambiente. La questione è che questo orologio non va sempre in avanti, può anche andare indietro, perché se l'umanità fa qualche passo, diciamo, verso certo. un allontanamento dalla propria estinzione, torna indietro. La notizia è che oggi è scattato, è andato un pochino in avanti, la commissione ci ha portato a 3 minuti dalla mezzanotte dell'umanità. Ma ecco, cioè, capito, è peso, nel senso, ci sono 12 ore, giusto? Sì. 3 minuti su 12 ore è una percentuale abbastanza bassa. Quindi in teoria, secondo questi scienziati, siamo all'incirca verso il 99%, 98, 97, non lo so. Sì, infatti è allarmante, siamo allo scadere. Poi il fatto che possa andare avanti o tornare indietro, comunque, o non andare sempre alla solita velocità, cioè, per capirci, nel 2012 era 5 minuti. Ora siamo a 3 minuti, quindi in... casino totale, vuol dire nel 2020 finisce. Ma è evidente, comunque, siamo a un casino totale. Nel 2045 a quanto sera? Guerra fredda. Nel 2045? Nel 1945. Ah, ok. 2045? Boh, io tra l'altro spero di essere su Marte. Beh, no. Ciao. Ciao, lì. Ma se scatta l'ora legale, come funziona? Non c'è l'ora legale. L'ora legale poi è un'invenzione dell'uomo. Tra l'altro. Cosa... No, e quindi è così, sì, se non ci diamo, fondamentalmente è un appello mondiale in cui dicono, ragazzi, se non ci diamo una regolata... Vabbè, a me non mi piace tanto, A te non ti piace tanto questo orologio? Sì, ma si può acquistare? Boh, però... No. Sì, c'è da polso. Diversi colori sulla fine dell'umanità. Anche smart adesso. Può andare sott'acqua. Sì. C'è l'app. Almeno l'app c'è, spero. No, però comunque è un allarme... Gli scienziati non capiscono niente. Comunque sono questioni socio-scienzo-politiche. Certo. Polio... Uretano, sì, tutto. Sì. Così. No, vabbè, quindi questo Doomsday Clock, insomma, ci sta dicendo... aiuto. Occhio. Bene, vabbè. Ok. No, non ho dato adito a domande. No, praticamente no, perché sei stato estremamente chiaro. Me la rido. Senti, adesso io continuerei con il nostro grande movimento, ma sono in tante persone qui intorno a noi, tutte prontissime. Sì. Tutte prontissime. Sì. Con chi iniziamo? Allora, visto che io ho raccontato una storia, voglio qualcuno che ci dica un po' la sua. No? E quindi io? No. Mandiamo un pezzo, va. Mandiamo un pezzo. Ci pensiamo. Va bene, mandiamo un pezzo. Vabbè. I'm gonna Buongiorno, sergente maggiore. E tu che ne sai? Di che cavolo di giornata è? Però... Samir, che ci vuoi dire? Samir, che ci hai da dire? Samir, Samir, Samir! Eccoci, ci abbiamo pensato. C'è Samir. C'è Samir, certo. Ciao, ciao ragazzi. Buonasera, ciao a tutti. A chi ci ascolta, a chi non ci ascolta. Giusto. Buonasera, sono tornato a farvi visita, visto che... Grazie. Un po' che manco. Allora, cosa ci racconti oggi? Vi racconto una notizina un po' assurda, che comunque ha... Nuts Skin, che comunque la caccia la caccia è sempre aperta ai nazisti, quindi queste notizie vaghe che girano fra vari social network ci interessano sempre. Sì, è vero, hai ragione. Allora, ve lo leggo subito. Vai. Va bene. Nel 2008 le televisioni tedesche si diceva sono nato in una notte Samira, di... la notte no, d'inverno Samira, bravo col micro. Vado. Vai. Nel 2008 le televisioni tedesche si diceva sono nato in una notte d'inverno di 2500 anni fa. Mia madre muore dandomi alla luce e mi affido ai suoi zii. E il mago Merlino. Ecco. Fermiamoci un secondo. Ok, adesso ricapitoliamo. Capiamo. Ricapitoliamo. Sì, allora, tale personaggio? Tale personaggio della televisione tedesche diceva: sono nato 2500 anni fa. Mia madre, prima di morire, mi affidò a mago Merlino, che era suo zio. Bene. E fin qui tutto bene. Qui va bene, tutto bene. E adesso lui? E adesso lui si è vestito di abiti bianchi e la barba grigia e lunga, con un bastone nodosso in mano a Borgard, scusami, nome, Bicia, perché io sono un po', c'ho un mal di gola, quindi cioè, figura. B, in realtà è un esponente di spicco di un'organizzazione neonazista tedesca, pianifica attacchi contro stazioni di polizia, immigrati ebrei ed ebrei, predicava sui social alle manifestazioni del ritorno di Reich tedesco. Hai capito, Mago Merlino? Capito. Ecco l'inghippo. E di un grande impero in passato sulla supremazia germanica. Insomma, è nipote di Mago Merlino. è nazista ed è stato arrestato a 62 anni per affiliazioni e dal gruppo eversivo di estrema destra del Reichsberg. Lui? Sì. Invece. Trovati invece nella sua casa e nella zona di Stoccarda armi di fuoco e munizioni di Molotov. Yeah. Ah, le Molotov. Sì. Abbiamo trovato, sì, munizioni, armi, Molotov. Un nazi druido, quindi. Un nazi druido, praticamente. Pensavo prima forse per la... Cosa sono le munizioni di Molotov? La... Quindi lui l'hanno arrestato, mi sa. Sì. Senza 62 anni e quindi... Cioè, che ha fatto parte di questo gruppo... di amici. Di amici, di gli amici... Giona Pallone. Cioè, Giona... Vedrai. Cioè, Giona Tedesca. grave, questa è grave. Scusate, mi è scappata. Rimarrà negli annali di questa trasmissione. Buono, quindi druido filonazzi. Questo druido che si presentava appunto come un mago, andava attentatore alle fiere, fantasy, eccetera, eccetera. Poi alla fine si è rivelato un nazista che andava alle fiere fantasy. Sì, era un personaggio anche amato in quel mondo strano. Pensavo prima, forse gli è venuta l'idea della somiglianza del cappuccio di Mago Merlino con quella del Ku Klux Klan. Forse alla fine, sì. Di forma e di figura. Se l'ha tirato giù e ha fatto due buchi. Via. Sì. Però era blu con le stelline. Un bijou. Un bijou, sì. C'hai un'altra notizia anche, per caso? Se ti va, se no, sì. No. Come ti sei? Sì, scavando, ho trovato, fra, come ti ho detto prima, fra social network e amici degli amici, cioè, ci si trova più o meno sempre qualcosa da... Di succulento. Raccontare, sì, anche se non... Vi racconto di pizza. Vai. Ah. Oggi di pizza. Anche di pizza. Quindi fai la rubrica di cucina praticamente. Sì, vabbè. Scusa. Forse. Ci provo, dici. Mi piace il cibo, cucinare e anche la pizza. Però non sia alle stelle, sia una pizza normale, insomma. Che non, giusto. Che non costa più di quel budget di uno, insomma, se permette. La pizza. Giusto, cioè, giusto. Parlo di una pizzeria che... Sì, vai, sì, di una pizzeria. Allora, racconto questa notizia della pizza. Vai libero. La pizza tradizionale è un piatto popolare del prezzo abbordabile e quindi è ottimo per una serata fuori dove non si voglia di spendere troppo. Bene, perfetto. Vera. Ma ci sono delle eccezioni sicuramente. Sì, ci sono le eccezioni. Sicuramente tra queste una dei più significativi è data della data di una pizzeria di New York. Maledetti americani. Come solito mangiano come maiale. Che offre una pizza condita con vero oro, ecco. Cioè commestibile, ragazzi, cioè, capito? Quindi se uno va in bagno il giorno dopo magari da uranio va a raccattare roba. Cioè, boh, questa è una pensata, però alla fine poi lo riusi. Il prezzo si sa, quanto te la fanno pagare? Il modico prezzo è di $2,000. Ah, vabbè, ci sta, perfetto. Ci sta. Sabato sera pizzata. La ragazza offro io. Una pizzata con gli amici. Oh, 4.000 euro. Buono, buono. Ma poi con l'ipotesi di poterlo riprendere il giorno dopo, poi te lo vai a squagliare con il sacchettino delle feci, no? Senta, io vorrei squagliarmi quello che ci trova dentro. Giusto. Che sa cosa trovi. Lo recuperi. Chissà cosa trovi, dici. Vero. questa pizza la pizza è ideale da ristoranti industry kitchen. È stata kitchen. Ispirata dal vicino distretto finanziario che ha tre a miliardario di tutto il mondo, rappresenta secondo molti un simbolo di lussuriosa decadenza, oltre a loro, no. Sì, sì. Oltre a loro e gli altri ingredienti, includendo foie gras, sì. Bravo, sì. Tartufo, caviale, formaggio inglese, Stilton. Stilton. Sì, Geronimo, sì, lui. Geronimo, che quello che fa quel tipo di formaggio, sì, particolare. E sì, l'impasto rifinito con un chiostro di seppia per dargli un colore nero. Comunque, a parte loro, ma che troiaio è? No, ma è schifo sta roba, diciamoci la verità. Cioè, ma è tutto insieme? Sì, sì, ha detto bene, Samik, ma già come maiale. Vabbè, vai, ragazzi, vai. Meno male che non c'è l'ananas, però. Perché se no sarebbe stato... L'ananas e frutti di mare. Le patatine fritte. Sì, certo. Notizia assurda, Samir. Notizie assurde, sì. Raga, ti ringraziamo comunque di avercele portate. Grazie a voi. Vi auguro una splendida continuazione. Grazie. Su questa frequenza, insomma, su Radio Wombat. E sicuramente non andrò via. Cioè, bravo. Bravo. Meglio stai qui. Con noi. Stai con noi, sì. E ci si vede presto. Ciao, ciao Samir. Tutti. Ciao Samir. Samir, che ci vuoi dire? Samir, che ci hai da dire? Samir. What is an eye? Maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano, gli americani non bevono vino rosso, non mangiano maccheroni. Gli americani mangiano marmellata. Marmellata, questa è roba da americani. Yogurt, mostarda. Ah, ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani, gli americani non bevono vino rosso. Bevono il latte, apposta non si embriacano. Che avete visto mai un americano ubriaco voi? Io l'ho visto mai un americano ubriaco. Gli americani sono forti. Mazza, gli americani non puoi mica combattere contro gli americani. Samir, che ci vuoi dire? Samir, che ci hai da dire? Samir. Ma semplicemente la morale della favola di quello che ci ha raccontato Samir è: occhio a dove andate a mangiare la pizza sabato sera. E guardate il menù prima. Guardate il menù. E non fidatevi dei santoni, anche degli americani, ma anche dei santoni vestiti di bianco. E la prossima canzone ce lo ricordo. Via dei guru indiani, schivavamo fucilate canticchiando il motivetto dell'estate. Ogni volta che per strada scorre il sangue di uno sparo ai piani alti c'è qualcuno che accumula denaro, un vecchio avaro alzato il muro, il giardino per i grandi, il vino bianco frizzantino ancor più bianco si è servito con i guanti bianchi. Sotto ai guanti unghie nere, mani sporche di cantiere, nei polmoni ciminiere, nella testa le preghiere, tutti in fila per andare dal droghiere che ci dà la tesserina fedeltà, con la faccia di Gandhi. Andiamo tutti in fila dal barone e faremo l'iscrizione per sentire la lezione sui discorsi di Gandhi. Per i piccoli di Gandhi. E c'è chi cambia vita e si va in India, tanto il cambio è conveniente, tanta gente per un niente, lava, stira, asfalta strade intitolate, non vi sto qui a dire a chi, di sicuro indovinate, ecco adesso meditate, meditate, a che serve lavorare, se gli indiani sono tanti, puoi contare sui contanti, con la faccia di Gandhi. Andiamo nelle fabbriche a parlare di Gandhi, andiamo nelle carceri a parlare di Gandhi, andiamo nelle scuole di Borgata a inaugurare un'altra scuola di Borgata intitolata Mahatma Gandhi. Andiamo nelle fabbriche cinesi in mezzo ai campi calabresi, pomodori di Ragusa li raccolgono gli adepti di Mahatma Gandhi. Gandhi. Povero Cristo, sulla croce, gli salta la mosca al naso, non se la può togliere. La mosca si è ingrassata nella cacca della vacca sacra. La vacca è dimagrita per poter partecipare alla corrida. Rida, signora, rida e si rilassi. E dica a suo figlio di non lanciare più sassi, per favore. Pulcinella, si tolga la maschera, abbassi il mattarello. Ecco, lo vede che è più bello, calmo, rilassato, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, mi ricorda qualcuno. Mi ricorda? Ah, certo. Gandhi. Luana Gandhi. Moira Gandhi. Natasha Gandhi. Emanuele Gandhi, Mauro Gandhi, Danilo Gandhi, Jennifer Gandhi, Cristina Gandhi, Alessandro Gandhi, Gandhi Magazzini, Gandhi Elettricità, Istituto Tecnico Commerciale Gandhi, per imparare a costruire la tunica di Gandhi, Gandhi Lavatrici, Gandhi Opportunità, Gandhi Istituto di Correzione Automatica. Pulcinella, ma che eleganza, ma che piacere rivederla così, senza bastone, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, ma è pronto per l'aperitivo? Non ci venga, non si sia a pensare. Guardi che al mondo c'è chi fa lo sciopero della fame e chi sciopera perché ha fame, ma alla fine arriva sempre la polizia, che non ha mai letto nessuno dei libri di Gandhi. Fabbriche a parlare di Gandhi, andiamo nelle carceri a parlare di Gandhi, andiamo nelle scuole di Borgata a inaugurare un'altra scuola di Borgata intitolata a Mahatma Gandhi. Gandhi. bella giornata, sergente maggiore. Sei diventato un meteorologo da cazzo. Allora, ci risiamo qui. Sì, eccoci. E siamo prontissimi praticamente per il pezzo live. Siamo sul pezzo, come si può dire. Ciao Grippo. Ciao Grippo. Ciao belli. Mi sentite? Sì. Buono. Forte e chiaro. Grandi. Oggi si prova con il condensatore. Novità. Quindi si sentirà tutto il casino che si fa, tutto il macello che fanno tutti quanti. Come sempre del resto. Come sempre. Però questa girata ancora di più, perché abbiamo proprio un microfono che ripiglia tutto il casino che facciamo, tutte le grattatine della gente, ogni soffiata di naso, ogni colpettino. In apnea dobbiamo stare. Tutto si sentirà, tutto. E niente, io vi vado a fare questo pezzo che è del... Ehi, eccoci. Buono, ci siamo? Scusate, è dal cavo. È un pezzo che è del 2002 e che è dedicato allo streaming di oggi. E non lo capirete perché. Evviva. Aspetta, che stanno chiamando la Katia. Aspetta, stanno telefonando. Chi è? Rispondi. In diretta? Rispondi a questo. C'è una telefonata in diretta da parte della Katia. Ciao, Arianna. Ah, vuole venire a cantare anche lei. Sentiamo, Arianna. Forse qualcuno che recrimina. Oh, Ari. No, è partita. Bene, è andata. Allora io direi... spariamoci questo pezzone di pizza, dai. Sì, ci si spara. Questa foto di pura gioia è di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto, non ha sapore quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare diritto sull'acqua e su quello che non c'è. Arriva l'alba, o forse no, a volte ciò che sembra alba non è, ma so che so camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello. Chiave della felicità e la disobbedienza in sé, quello che non c'è. Perciò io maledico il modo in cui sono fatto, il mio modo di morire sano e salvo, dove m'attacco, il mio modo vigliacco di restare, sperando che ci sia quello che non c'è. Curo le foglie, saranno forti se riesco ad ignorare che gli alberi sono morti. Ma questo è camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Ed ecco arriva l'alba, so che è qui per me, meravigliosa come a volte ciò che sembra non è, fottendosi da sé, fottendomi da me, per quello che non c'è. Yeah. grande. Molto bene. Che meraviglia. Leggevo un certo disappointment sulla scelta della canzone da parte qui della regia, anche se l'esecuzione è stata sopraffina. Lo so. Cioè, a me piace questa canzone parecchio, dico, anche non mi piace tanto. Ma anche a me personalmente piace. A me così cosa? Un po' in antipatico di là, proprio tutto. Già siamo sempre a testa delle lodi di quelli. Però ha scritto dei pezzoni, porca puttana. Cioè, questo è un pezzone. C'è grandi un po' da pezzoni, fare. 2002, da quello che non c'è, After Hours. Quello che non c'è. Bello, molto bello. Grazie, molto bello. Pizzo. Grazie. Prego, mille. Sì, assolutamente. Io volevo sapere, aspetta, prima dicevi che c'entrava con lo streaming, cioè con... Sì, perché è quello che non c'è. Ok, non avevo colto la battuta. È vero, è quello che non c'è. Ai noi. Vorremmo wifi. Sì, praticamente sì. Vabbè. Io voglio. Lo facciamo che hai. No. Non cadiamo. Non cadiamoci. Tentazione. Senti, come? No, dicevo appunto, confermavo quello che dicevi, non cadiamo in tentazione. Anche perché stiamo seguendo anche i 10 comandamenti, quindi un certo rigore, certo. Va bene. Andiamo avanti con una lettura? Sì, con una la consueta lettura. Molto bene. Legge Tasso, sigla. E ora... E ora legge Tasso. Ha letto Tasso. Chi vuole guardare al mondo solo con razionalità, prima o poi sarà vittima dell'irrazionalità, più rapidamente e più vistosamente di quello che desidera soprattutto vivere liberamente. La ragione non è padrona e creatrice della libertà, ma vi prende solo parte. La libertà è determinante, la ragione ne è solo uno strumento e non l'origine. Tutto ciò che è razionale o irrazionale lo è in certi limiti. La libertà invece, che è il solo attributo divino dell'uomo, trascende ciò che è razionale e irrazionale. Mi rende libero solo quello che trascende da me. Trovo me stesso là dove allo stesso tempo mi perdo. Questo stato della libertà può avere molti nomi. In nessun caso possiamo però chiamarlo razionale. Quando Hegel accomunò Dio e lo spirito assoluto e li subordinò alla razionalità, in fondo voltò le spalle alla libertà. La libertà razionale non è libertà. Ciò che è razionale è sempre limitato, mentre la libertà è illimitata. Nel nome di Dio, ma senza lo spirito divino, è la caratteristica dell'idea della storia che alla metà del Settecento sostituisce la storiografia redatta in base alla storia cristiana della salvezza. L'interpretazione hegeliana della storia subordina tutto ciò che è divino a qualcosa che è controllato dall'uomo. In fin dei conti, senza annunciarlo, sottopone tutto alla sfera dell'influenza della politica. Lo conferma anche il fatto che cerca una spiegazione per tutto, anche per quello per cui evidentemente non c'è spiegazione. Obbedendo al processo di secolarizzazione dell'età moderna, non cerca l'infinito divino nascosto dietro la politica, ma al contrario, in ogni caso possibile, tenta di interpretare l'infinito divino, ovvero tutto quello che è non conoscibile dalla mente umana, secondo punti di vista politici. Per esempio, parlando delle tribù germaniche, fa notare, vivevano in comunità, ma queste non costituivano uno status politico, quindi vivevano ancora fuori dall'ambito della storia del mondo. A partire dalla seconda metà del Settecento, in misura mai vista prima, tutte le questioni culturali e teologiche avevano preso dunque una dimensione sempre più politica, a discapito della libertà. Più precisamente, poiché ciò che è illimitato non può essere trascurato, l'attenzione si era spostata dalla libertà. La fede riposta nell'esclusività delle soluzioni politiche, naturalmente, al suo aspetto latente religioso, teologico, come scriveva Cortés alla metà dell'Ottocento, al fondo di ogni questione politica si nascondono sempre questioni teologiche. Poiché però le questioni teologiche, dunque quelle relative alla libertà divina, venivano trascurate a favore della questione dell'incanalamento e della controllabilità, la fede nella trascendenza diventava sempre più debole. È pur vero che nella filosofia della storia di Hegel, come in tutta la cultura occidentale contemporanea, la parola Dio è almeno tanto ricorrente che razionalità. Il concetto di Dio è però il sipario, dentro il quale vengono ammucchiate cose che non possono essere affatto definite divine. La caratteristica principale della politica, come si può dedurre dalla filosofia della storia di Hegel, è quella di essere fatta da uomini con le proprie forze secondo una presunta razionalità, che gli avversari politici, in base alla loro razionalità, naturalmente giudicano irrazionale, al prezzo di escludere tutti quei punti di vista che sono incontrollabili, inspiegabili, irrazionali. Dall'epoca di Hegel in poi, la politica non significa solo l'iniziativa umana onnipresente, bensì l'esclusione, la divisione, lo spezzamento, ovvero in generale la rimozione. Con le parole di Carl Schmitt, la borghesia liberale vuole un Dio che però non deve poter divenire attivo. Essa vuole un monarca che però deve essere privo di potere. Essa pretende libertà e uguaglianza e tuttavia anche la limitazione del diritto di voto alle classi possidenti per assicurare all'istruzione e alla ricchezza la necessaria influenza sulla legislazione, come se istruzione e ricchezza dessero il diritto di opprimere gli uomini poveri e non istruiti. Essa elimina l'aristocrazia del sangue, delle famiglie, e lascia però sussistere l'impudente signoria dell'aristocrazia del denaro, che è la forma più ordinaria e stupida di aristocrazia. Essa non vuole né la sovranità del re, né quella del popolo. Che cosa vuole dunque? Non si può più parlare di libertà se infinito e trascendenza si perdono dietro cose limitate. Il Dio assoggettato alla razionalità non è il Dio della libertà, ma della politica, della conquista e della colonizzazione. La secolarizzazione è la religione di questo Dio moderno e la storia, dal punto di vista di Hegel, è la storia della secolarizzazione. Dostoevskij poteva pensare a buon diritto che Hegel non solo avesse escluso dalla storia la Siberia e con essa Dostoevskij medesimo, ma come un missionario cercasse di convincere tutta l'umanità a vedere della storia soltanto quello che la censura del suo sistema razionale considerava tale. Alla Siberia vengono dedicate poche parole, ma la spiegazione è semplice. Poco prima il filosofo aveva parlato dell'Africa, il continente che pure considerava fuori dalla storia. Hegel esiliò l'Africa con tale piacere, con ispirazione quasi poetica, che alla fine il suo slancio creativo sembra esaurirsi, e ciò che diceva dell'Africa era valido anche per la Siberia. La causa dell'esclusione e del rifiuto è la stessa in entrambi i casi: il timore di ciò che è incomprensibile per una mente europea, paura dell'inintellegibile o terrore dell'oscurità. Ma la passione di Hegel, nata dall'improvviso, è proprio una rivelazione. Respingendo l'Africa e la Siberia, rifiuta cose che lo avevano visibilmente toccato nell'intimo. Non solo abusa dei propri sentimenti, ma nega il proprio io oscuro, tutto l'orrore, il ribrezzo, la mostruosità che non dovrebbe respingere con tanta veemenza se non ne vedesse le radici nel suo cuore. La passione con cui descrive le presunte crudeltà irrefrenabili in Africa, citando di continuo nuovi casi, aneddoti, episodi agghiaccianti, senza scoprirvi mai qualcosa di piacevole, di bello e di ammirevole, denuncia non tanto la paura di Hegel dell'Africa, a Berlino poteva sentirsi al sicuro, bensì che non si sentiva in pace con i propri istinti. Poi il filosofo, da anziano, lontano anni luce dall'esperienza della libertà, fabbrica a scopo autoterapeutico una filosofia della storia, una spiegazione dell'esistenza. Eppure può darsi che in fondo al cuore non desiderasse altro che poter pronunciare anche lui, come avrebbero fatto in seguito Rimbaud e Genet, «Sono negro». In Africa la storia non è possibile, afferma, ma la sua argomentazione difficilmente potrebbe superare la prova della razionalità. È il paese dell'oro che resta concentrato in sé, il paese infantile avviluppato nel nero colore della notte al di là del giorno, della storia consapevole di sé, come scrive in Lezioni sulla filosofia della storia. Non ha contribuito in nulla alla cultura. Cosa rifiuta qui Hegel in una sola frase? L'oro lucente, l'infanzia e la notte. L'oro massiccio non ancora ridotto a moneta, che acceca come il sole. La notte, che in questo caso supera anche il riconoscimento consapevole e la cui oscurità non è molto diversa da quella all'interno del corpo. E infine l'infanzia, quando i desideri potevano ancora espandersi e manifestarsi liberamente in una sorta di stato paradisiaco. Qualche psicologo contemporaneo di Hegel, per esempio Gottlieb Heinrich Schubert, che Freud avrebbe stimato molto in seguito, oppure Carl Gustav Carus, del quale Dostoevskij avrebbe voluto tradurre in Siberia con Wrangel l'opera La Psiche, sicuramente avrebbero notato che analizzando l'Africa Hegel era spaventato da qualcosa, forse da qualcosa che Freud più tardi, rilevando proprio le rimozioni hegeliane nella cultura, avrebbe definito come analisi. Poco dopo, forse per un lapsus, chiamò paradisiaca la situazione in Africa. Tornò però subito in sé per respingere ciò che l'uomo più desidera. È proprio lo stato paradisiaco a non essere perfetto, dice, perché l'innocenza non è condizione degna dell'uomo. Solo il bambino, l'animale sono innocenti, l'uomo deve commettere qualcosa. In fondo al rifiuto della condizione paradisiaca si c'era l'incomprensione verso le forme di vita inavvicinabili per il pensiero europeo, ossia razionale. Hegel teme il paradiso, come solo uno scienziato moderno potrebbe essere spaventato all'idea che tanto affascinava Dostoevskij, che Dio, se vuole, può rendere possibile anche che 2 più 2 diventino 5. Hegel torna a rilevare che non abbiamo alcun mezzo per immedesimarci nella natura degli africani, Di conseguenza ciò che è incomprensibile per lui non è un miracolo, ma è qualcosa di selvaggio e inarrestabile. I bagni di sangue, il culto smisurato, irrazionale dei morti, la mancanza di considerazione della vita umana, le magie, le cerimonie misteriose, tutto questo poteva essere davvero spaventoso per un professore europeo degli inizi dell'Ottocento. Ripensandoci oggi, però, è altrettanto atroce che questo professore, che si richiamava ai limpidi criteri della razionalità, in realtà facesse la stessa cosa di quelli che già da un bel po' stavano colonizzando con le armi il paradiso, riferendosi in qualche parte a quelle teorie cristiane alle quali Hegel ricorreva con frequenza. In fondo soggiogarono con le armi e con la ragione ciò che si era dimostrato inespugnabile e imprendibile. Dostoevsky legge Hegel in Siberia e scoppia a piangere. Di Laszlo Fuldeni. A letto, Tasso. A letto, Tasso. A letto, Tasso. Una cosa del genere, secondo me. A letto, Tasso. A letto, Tasso. A letto, a letto, Tasso. È un ufficiale della flotta stellare, ha un dovere da compiere. Non venga a dare lezioni a me. Io combattevo per la galassia quando suo nonno era ancora in fasce e credo che la galassia sia in debito con me. Esiste, però non si può raccontare. Che già nel guardarla la cambi, che già nel pensarla scomare. Ma nell'essere triste non c'è niente di male, se il dolore persiste fino al prossimo telegiornale. Pensa al lato emozionale, come un infarto in corso. È uno spot promozionale, ci serve uno sponsor. Se tanto ciò che ricavi non è mai proporzionale allo sforzo, in via precauzionale evitare il rimorso fino al prossimo sorso. Errare, emozionare, emozionarsi senza razionare, metà razionale, metà non ricordo, ironizzare a metà del discorso, scoprire che c'è chi sta peggio di te, come in coda al pronto soccorso, come in coda al bancone, venerdì scorso, weekend con il morto, da qui tanto vale finire il percorso, non vale lasciare la nave che sta andando a fondo. In attesa di avere un responso, mi crollano addosso tutte le idee che ho rimosso. La verità ha un costo. Forse la verità esiste, però non si può raccontare. Che già nel guardarla la cambi, che già nel pensarla scomare. Ma nell'essere triste non c'è niente di male, se il dolore persiste fino al prossimo telegiornale. Fino al confine del mondo e poi passo di più. Toccare lo sfondo e poi ancora più giù, fino al confine del mondo e poi passo di più, fino a toccare lo sfondo e poi ancora più giù. Dovrei essere un poco più fiero di me, un po' meno pieno di dubbi, un po' meno pieno di sé. Come chi è vuoto ed è pieno di sé, arretro il pensiero di te, e dopodiché tu sei dietro di me. Per dare valore alla musica non basta un cachet, non basta ascoltare la musica per farti un'idea su di me. Ma un errore che fanno in tantissimi, esseri piccoli, in entrambi i casi tutti vi meritate gli spiccioli. Neutrali come gli svizzeri con le fisse monumentali, rimane pari punteggi nei questionari, pranzi aziendali, magari capi e compari, t'han detto il limite dove spingerti, stare zitto e mi istighi. Vuoi il peggio di me per distinguermi? Vuoi il peggio di me? Vuoi il peggio di me per sentirti un po' meglio? Il guerriero che incontra la luce, sì, Paolo Coelho. Il tuo cavaliere senza una macchia e senza paura, alla fine vincula, l'ipocrisia è un'armatura, fingere vi rassicura. Forse la verità esiste, però non si può raccontare, già nel guardarla la cambi, già nel pensarla scompare. Ma nell'essere triste non c'è niente di male, se il dolore persiste fino al prossimo telegiornale. Fino al confine del mondo e poi un passo di più, toccare lo sfondo e poi ancora più giù, fino al confine del mondo e poi Girava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma dopo 5 giorni di dolore straziante, il cobra è morto. Impastando si impara. Mi serve un papelillo, mi prepara un cigarrillo, giù una cina, poi mi dico che va bene, non rieccoci. Va bene, buonasera a tutti. Carte. Citando ciao. Mia nonna, buonasera a tutti, belli e brutti. Belli e brutti. Come diceva prima Samir. Dice a te, ascolta, forse che non... sì. Allora, oggi... Che ci oggi vi faccio una lezione. Ah, fai una lezione. Va bene. Sono pronto. Sulla torta. Non parli torta. Di filosofia. No, non proprio. Hegel? Non proprio. No, rilassiamoci. Non è un piatto siculo, Hegel. No, rilassiamoci un poco, ragazzi. Allora, il termine torta pare derivi dal latino traere, ovvero maneggiare. Altri sostengono che derivi dal participio passato del verbo torquere, cioè attorcigliare. E con ciò forse ci si riferiva a delle torte ripiene girate in tondo, tipo dei ciambelloni ripieni, diciamo. Boni. Ok. Curioso è il fatto che negli antichi dialetti celtici si trovino tracce della stessa voce. Tipo in bretone si dice tors, mentre in gaelico e in irlandese tort. Beh, ho fatto un po' di ricerche che dicono queste cose. Allora, il termine inglese invece pare derivi dall'antico norvegese, ovvero caca, che è una focaccia di pane rotonda, e quindi cake, e poi cookie, che significa piccola torta, che è biscotto. Il biscotto. Sì, però a me ha fatto ridere quando l'ho letto, non so perché. Allora, la prima notizia di una torta elaborata la troviamo nel Satiricon di Petronio. Ah, c'è caos. Nella famosissima scena del banchetto di Trimalchione. Okay, o Trimalcione, che riporta la Trimalcione. Aspetta, è vero. C'è un dubbio. O Trimalcione, perché ho trovato Trimalcione su internet, ma nella mia testa è stato sempre Trimalchione, quindi non so, mi è sorto il dubbio. Chiamalo Guido. Trimalchione. C'è proprio l'accento sposato. Giusto, anch'io sono d'accordo. Va bene, ho sbagliato. Ho sbagliato da sé. No. Ho sbagliato da sé. Va bene, che riporta la descrizione. Sì, mi sono intortata. Oh. La descrizione di non questa è Trimalchione, torta... comunque. Come? No, non è Trimalchione, certo. Oh, ragazzi, ma voi lo sapete che io vi credo in tutto quello che dite. Mi conoscete. Non fate queste cose. Comunque, serietà. Che ritrae appunto la scena di questo grandissimo banchetto e vi è la descrizione di questa torta a forma di divinità pagana. Ok. Allora, gli ingredienti comunque tuttavia erano molto semplici, perché non è che erano limitati, e le torte venivano impastate con miele, farina e uova. Okay. E lo zucchero fa l'ingresso in Europa intorno all'anno 1000, e ci sono, vabbè... Giorno più, giorno meno. Sì, lo portano le popolazioni arabe, prima in Sicilia, in Spagna, poi comunque era considerato... un alimento di lusso, perché costava uno stonfo. Okay. E niente, poi la torta a piani nel Medioevo fa la sua apparizione. Consuetudine era che durante i matrimoni gli invitati portassero torte e focacce, e l'usanza dice che queste torte e focacce venivano messe una sopra l'altra formando una pila. Più la pila era alta, e più gli invitati volevano bene e davano buon augurio, buon auspicio agli sposi. Per questa occasione in Inghilterra inventano la prima glassa per tenere su questa roba, dicevo, col grasso terribile. Ah, boy. Col grasso! Sì, terrificante. E poi la glassa, che poi comunque viene sostituita dallo zucchero, quindi le torte nuziali, perché erano bianche? Perché più zucchero veniva utilizzato, più simbolo di ricchezza era per la glassa, ok? E quindi... Bella. Sì. Il baggio masso è top. E quindi niente, poi da lì prende la simbologia torta bianca, la purezza della sposa e la ricchezza. E... Ah, è legato al bianco de... sì, dello zucchero, dello zucchero della glassa, sì. Quindi ha origini medievali. Pensavo purezza, no, la sposa. Sì, anche. Poi gli viene dato tutte anche... cose. Sì. Tutte cose. E niente, allora, la lezione ovviamente include anche la pratica. Oh, perché certo. Arriviamo al dunque. Allora, come si fa una torta decente? È importantissimo veramente curare, essere attenti ragazzi, cioè è meticolosità la pasticceria, è questo semplicemente. E quindi dall'inizio fino alla fine basta rendersi conto e imparare questi trucchetti e tutto quanto va per il meglio. Allora, la prima cosa numero è la temperatura, in tutti i sensi. Mm. Dalla temperatura degli ingredienti alla temperatura, poi vedremo, del forno. La temperatura degli ingredienti è solitamente sempre temperatura ambiente. Quindi le uova, il burro, il latte, tutto quanto deve essere a temperatura ambiente. Okay. A meno che non sia specificato nella ricetta, sì, tipo come quando si fa la pasta frolla, per esempio, il burro è meglio che sia ghiaccio freddo, temperatura frigo, perché poi si scioglie durante la lavorazione con il calore delle mani e così via. Giusto. Quindi... E poi bisogna conoscere bene il proprio forno, perché ogni forno e chi può ogni conoscere forno è diverso e la temperatura, che conta tantissimo, può variare a seconda anche della marca del forno, di quanto è vecchio, di quanto è stato... Se è elettrico o a gas. A gas, infatti sì, questo poi lo specificherò dopo. Allora, accendere, un'altra cosa importante, accendere il forno un po' in anticipo per raggiungere la sua temperatura. Okay. E la temperatura si deve stabilizzare in modo che quando tu metti la torta nel forno, già come quando fai le crepe, le prime crepe che ti escono così così, poi la padella si riscalda per bene e le altre ti escono meravigliosamente, okay, per esempio. Quindi, okay? Il forno deve essere, quindi legge che vale anche per il forno. Deve fare lo stretching. La tempera e la torta va posizionata al centro del forno. Ok. Ok. Io solitamente metto quello, l'impostazione, quello sia sopra che sotto. Okay. Quindi la grata la mettete al nel centro mezzo. E la torta bella al centro della grata. Okay. Se il forno è a gas, invece, per esempio, questo è importante, la grata è meglio metterla sopra, perché il calore è dato tutto dalla fiamma di sotto, ok? Sì. Quindi la torta tende a bruciarsi, a cuocere male, ok? Poi, detto io su questa tecnica cose... sul forno a gas ci metto la teglia nel mezzo, per non fare salire troppo il calore, così fa una sorta di gabbia. Sì. Che ne dici? Che bella, sì, bella però idea, è bravo. Importante non metterla bravo. Sotto sotto, capito? Ma qualsiasi cosa in generale quando cuoci nel forno a gas, perché tende veramente a bruciare. Sì, è che lui mette una teglia nel mezzo a fermare il calore. Sì, capito? sì, ma è perfetto. Bella idea. Grande Marchino. Grazie, Marco. Prego, ragazzi, allora io prego. Oggi qua in regia ho portato un pezzo di torta che ho fatto assaggiare ai ragazzi, che ho fatto in occasione... Paura. Del buonissimo. Compleanno sì, della mia zia e niente, quindi vi spiego auguri. La procedura. Confermiamo l'affidabilità di chi parla, quindi sottoscriviamo. No? Vi spiego la procedura, appunto, i trucchi nella procedura nel fare la torta e vi do la ricetta di questa torta che ho portato oggi. Yep. Cogliamo l'occasione. Di che cosa abbiamo bisogno? 400 g di farina, 300 g di zucchero, 4 uova, 200 ml di acqua fredda, 200 ml di olio di semi di girasole, il succo di un limone e una bustina di lievito. Ok? Ok. Acqua fredda. Acqua, vedi qua, acqua fredda. Questa è la ricetta di una semplicissima torta da colazione, per esempio, quelle da ciuppare nel latte. Torta base, sì. Potete fare variazioni, però a piacere. E qui, vedi, per esempio, è soltanto acqua e olio. Non c'è burro e non c'è latte, quindi è molto leggera, poi risulta alla fine. Allora, qua io c'ho un sacco di pizzini. Cos'è importantissimo fare per avere una torta leggera? Setacciare bene la farina, il lievito, il cacao o comunque tutte le polveri. Ok. Quando si uniscono le polveri agli umidi, tipo lo zucchero, le uova, il burro, bisogna farlo a scaglioni. Ora, va bene, partiamo dall'inizio, mi sono incartata, ragazzi, scusatemi. Tranqui funky. Allora, cosa si fa per prima cosa? Si prendono le uova, che come abbiamo detto devono essere a temperatura ambiente, okay, e si cominciano a sbattere con lo sbattitore o comunque con un frustino, dipende quanto si è agili di gomito, ok? Sì. E si aggiunge lo zucchero finché non si ottiene un composto molto schiumoso, che è tendente, diciamo, al bianco, ok? Questa fase è importantissima, come dicevo, per la torta Camilla, sia per sciogliere lo zucchero e sia per incorporare nell'impasto l'aria che poi serve a dare la morbidezza della torta. Okay, quindi si sta lì anche 10 minuti, ragazzi, tranquillamente, con lo sbattitore. Le polveri è importantissimo setacciarle, perché così si fanno areare, si fa entrare l'aria all'interno e si evita poi di creare i grumi. Beh. Quindi che facciamo? Dopo che montiamo le uova, prepariamo le polveri da un lato, quindi mischiamo nella farina il lievito, la bustina, sì, di lievito, e prendiamo i liquidi, che sono i 200 ml di acqua fredda e i 200 ml di olio. Io li metto tutti e due insieme in una caraffa, tanto non fa niente. Ed è importantissima questa fase, alternare. Si mette tipo un po' di farina, setacciandola dentro, e quando si vede che l'impasto va un pochettino a indurirsi, si butta un pochettino di liquido. Ok. Okay. Importante qui è che se stiamo usando lo sbattitore elettrico, di mantenerlo a velocità bassa, perché se in questa fase si mantiene alta va a smontare tutta l'aria che avevamo incorporato prima nelle uova, ok? Okay, e, sì. La torta si può aromatizzare come volete, ragazzi, cioè grattugiate l'arancia, questa di mia zia, per mia zia l'ho fatta sia con il limone che con l'arancia, per esempio. Buon agrumi. Agrumi, poi succo di metà limone o un limone intero, dipende quanto è grande. Attenzione ai semini. E niente, allora, quindi abbiamo detto il forno deve essere già caldo. Importante, lo stampo, va bene, dai, ce la facciamo a imburrare bene una teglia, anche con l'olio stesso di semi, per esempio. Con un tovagliolino si olia tutta la teglia, si mette un cucchiaio di farina, si sbatte per bene. E il composto, sì, questa operazione si deve fare il prima possibile, perché nel momento in cui noi componiamo l'impasto, il lievito comincia ad agire già a temperatura ambiente, ok? Quindi è meglio che questa, comunque in generale, si faccia velocemente, così comincia la fase di cottura che blocca anche lo smontamento, okay, diciamo, dell'impasto generale. Ok, ragazzi. E il forno? E il forno deve essere a 180 gradi, okay, importantissimo questa cosa, prima dei due terzi della cottura, tipo 20 minuti, non bisogna aprire il forno. Ok. Cioè, io sto lì, mi metto addirittura, la mia madrina ogni volta mi mette uno strofinaccio sopra il vetro del forno, perché io ogni due minuti vado lì, c'ho la tentazione di vedere. Quindi non bisogna, perché se si fa entrare l'aria fredda va a smontare tutto quanto, la fase di cottura, ok? Quando è che bisogna cominciare a controllare la torta? Quando cominciate a sentire l'odore. Quando cominciate a sentire l'odore, allora lì potete andare, dopo 5 minuti più o meno, io solitamente faccio la prova, stecchino al centro della torta, e se esce col coltello anche, sì, io lo faccio. Se è asciutto significa che la torta è pronta. E ci metterà circa, a te conto? Dipende appunto dal forno, ecco, però, la cosa, dai, di conoscere il forno. 45-50 minuti, ecco, perfetto, più o meno, perfetto. 180 gradi. Quando la torta è pronta si spegne il forno, io faccio 2 minuti, forno chiuso. Lo apro un pochettino, così il calore esce piano piano, poi lo apro tutto e poi tiro fuori, esco la torta dal forno. Ottimo. E godi. E poi... No, fai raffreddare? Sì, si lascia raffreddare lentamente, brama, bla bla bla. Poi io, per esempio, non amo molto lo zucchero a velo, mi diverto a fare riduzioni. Per esempio, potete prendere il succo dell'arancia o anche... potete far, basta usare la fantasia, ragazzi. Succo d'arancia, succo di limone, l'ho fatto, zucchero, un pochettino di acqua e cannella in un padellino, fate cuocere, l'acqua evapora, lo zucchero si scioglie e si crea tipo una marmellatina. Ah, lo sapete che ho fatto? Vedi, me l'ero scordato. Ho preso l'arancia e ho pelato gli spicchi a uno a uno. Ho buttato quindi la polpa dentro la padella insieme allo zucchero, il succo e tutto il resto. Ok, quindi c'erano anche i pezzettini. Poi si fa ridurre finché diventa semi gelatinosa e si spalma sopra la, in sostituzione dello zucchero a velo, per esempio. Sì, ci mette a dura prova. Sì, davvero. Potete volte. Mettere anche le scorzettine intere, tagliate un pochettino più spesse o come piace di più. Noce moscata, cannella. E via la fantasia. Si mette su. E quindi questo. Poi, se volete sapere perché le torte sono tonde... Sì? Perché dici, quadrate dici. Cuociono trovato... male. Ah? No, dico quadrate cuociono male. No, non... no, no, no. Allora, ci sono diverse spiegazioni, ma le più attendibili, la più attendibile sembra l'origine religiosa, ovvero le torte più antiche venivano infatti utilizzate come parte essenziale del culto della natura e della ciclicità dei periodi riproduttivi. Da qui la forma circolare a indicare un moto mai interrotto e la completezza. Inoltre ricorda la forma tonda del sole e della luna, che hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nei rituali primitivi e pagani relativi alla fertilità. Come siamo colti oggi. Mamma mia. Siamo veramente colti. Ho trovato questo interessante. Fantastico, sì, assolutamente. E quindi niente. E quindi grazie. Forse. Se volete vi ripeto gli ingredienti. Devi ricapitolare sempre. It's important. Quindi per questa torta 400 g di farina, 300 g di zucchero, 4 uova, 200 ml di acqua fredda, 200 ml di olio di semi, il succo di un limone, una bustina di lievito, aromi a piacere. Perfetto. E ora vi lascio con un pezzo di Franco Battiato dell'85, però in una versione più recente del 2009 dall'album Innere Sauge, No Time No Space. Wombat. Adesso sai, io prendo tanta medicina e così poi posso mangiare tutta la tonda che voglio. Ecco, bravo zio, così mi piace. Bravo. Impastando si impara. Chiamala Canio. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne mangio. Dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più seguimmo per istinto le scie delle comete, avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you especially. Controllori di volo, pronti per il decollo, telescopi giganti per seguire le stelle. Navigare, navigare, nello spazio. altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory. Perché l'hai salutato? Per educazione. Ragazzi, sono di nuovo qui, scusatemi, voglio fare la rompiballe. Anche perché qui ora vi lascio con un mio amico che ci tiene quanto me. E questa bacchetto alla regia, appunto, perché hanno mandato la versione dell'85. No, non si accende. Che regia? Voi. Questa regia veramente che non fa le cose che gli vengono chieste. Comunque questa era la versione di No Time No Space dell'85 da Echoes of the of Sapiens. Ok. E differisce dall'altra? Sì, dall'altra è 2005 di Inneres Auge, che è un album un po' più sperimentale, diciamo. Allora, la colpa è mia, quale dovevo mettere? Quella un po' più sperimentale, però qui accanto a me c'è Markov e dicevamo questo, significa che doveva andare questa qui. È giusto, dai. Quindi, mi dispiace. Posso, scusate? Sì. Approfittiamo di questa accusa alla regia per salutare anche Andre, che è tornato ad Amsterdam. È tornato ad Amsterdam? Sì, piglia la cittadinanza. Questa volta è tornato con Giucas Casella ad Amsterdam. Sì, esatto. Lo salutiamo. Salutiamolo, sì. Allora vi lascio qui con il nostro amico Markov e la sua rubrica Musichette Buffe. Sigla! Musichette Buffe! Ciao Marchino. Che bello di essere qua. Viva, sì. Era un po', sei mancato. Era un po', ma anche questa volta in realtà svolgerò il mio servizio a metà. Come è giusto che sia. Tutto. Santa pigrizia, no, purtroppo non ho avuto tempo, un po' un periodo, ma vi leggerò una cosa anch'io. Facciamo tutto ricchi. Facciamo una puntata solo di letture, praticamente. Sì, oggi sì. No, vabbè, allora, introduco mezzo secondo il tema, anche se non c'è molto da dire, perché basta dire Donald Trump, e, insomma, se ne legge, se ne sente ovunque, e insomma, ci sono anche i motivi per cui ha senso sentirne parlare, purtroppo. Tra l'altro hai visto, si è avverata la tua predizione, hai che visto? Hanno riaperto l'oleodotto in Dakota. Era infatti, scontato, sì. Si sapeva, purtroppo. E nulla, Trump si è insediato il 20, sì. Per il 20 per l'appunto ci sono state grosse contestazioni, e quello che voglio leggere è un comunicato che è apparso il 12 gennaio sul sito itsgoingdown.org, che è un po' una chiamata alla mobilitazione, insomma. Certo. E anche se comunque sia siamo in ritardo, il 20 c'è già stato. Si iniziano già a vedere gli effetti della politica delirante di Trump. Può essere interessante comunque da dargli una letta. La traduzione che leggerò l'ho trovata sul sito fucina62.noblogs.org. E nulla, questo è... Aspettate, sono cieco. Allora, Disrupt J20, 20 gennaio, giornata di azioni diffuse negli Stati Uniti contro il regime Trump. Ciò che sta accadendo negli Stati Uniti è senza precedenti. Tutti gli elementi fondativi nell'ordine costituito americano, dal governo alla polizia, dall'economia ai partiti politici fino alla supremazia dei bianchi, sono messi in discussione, attaccati fisicamente e, in molte situazioni, ritenuti privi di legittimità da una gran parte della popolazione. I riots, i blocchi e le occupazioni delle terre sono diventate pratiche ordinarie, mentre il ritmo della lotta rimane costante. Le persone stanno iniziando a trovarsi l'una con l'altra e così trovano la loro potenza. Da una parte all'altra degli Stati Uniti nascono assemblee popolari nelle città per prendere decisioni al di fuori del potere dello Stato e della polizia. Si tengono laboratori su tutti, da quelli all'assistenza medica a quelli sull'autodifesa, coinvolgendo migliaia di persone, mentre l'estrema destra risponde con un susseguirsi di violenze e attacchi per cercare di mantenere le persone sottomesse allo Stato. Ciò nonostante, sta sorgendo una nuova potenza. Mentre Trump si prepara a prendere le redini del potere, egli aspira a governare su una nazione profondamente divisa che in gran parte lo rifiuta. L'elite hanno favorito la Clinton perché rappresentava qualcuno che potesse potenzialmente mantenere la pace sociale in un periodo di grande instabilità. Trump, invece, alimenta il caos e lo scontro con la stessa popolazione che vuole governare. Il suo indice di gradimento si è già velocemente ridotto, mentre da sempre più parti società si schierano contro di lui. Anche quei gruppi che inizialmente erano entusiasti di Trump ora percepiscono il pericolo per il loro lavoro, la sanità, le stesse loro vite e la loro libertà. Allo stesso tempo la cosiddetta destra alternativa, l'alt-right, la subcultura che ha contribuito a far vincere Trump, si sta sgretolando mentre le organizzazioni di estrema destra marciano ciecamente dietro il loro nuovo leader, pronti a servirlo come forze extra legali dello Stato, usando la violenza se necessario. Nel frattempo, la sinistra è afona, così come le organizzazioni istituzionali, riformiste, burocratiche e politiche, non hanno letteralmente alcuna idea di cosa fare né di come farla. Avendo basato la loro attività sulla raccolta di fondi non profit, sull'attivismo vertenziale, inscenando spettacoli insignificanti al solo scopo di attirare l'attenzione dei media e cercando di fare così pressione sui democratici per ottenere piccole riforme politiche, la sinistra si trova ora nella condizione di non sapere che cazzo fare. Avendo passato decenni a deludere le persone o spremerle per le loro raccolte di fondi, la sinistra riformista, elettorale, non profit, è ora vista per quello che è. Cioè come un peso morto. Tutti, Bernie Sanders, l'intero Partito Democratico, il Partito dei Verdi, fino ad arrivare all'intero motore della democrazia americana, sono visti come sintomo di bancarotta, come un impostore e una totale perdita di tempo. In altre parole, la situazione è eccellente. Perché perturbare il 20 gennaio? Ovunque dilaga la rabbia. Trump è stato scelto dal collegio elettorale in un momento di un grande e diffuso disgusto per il sistema politico americano, il quale, negli ultimi 8 anni, ha continuato a portare guerre all'esterno, mentre al proprio interno si intensificavano il controllo, i poteri di polizia e la repressione. Durante la ristrutturazione dell'economia, dopo il crollo del 2007-2008, ingenti quantità di ricchezza sono state sottratte dalle mani della classe operaia e dei più poveri e concentrate in quelle delle elite più ricche e potenti. Contemporaneamente, la minaccia di un drastico cambiamento climatico si è solo acuita mentre movimenti sociali di massa, lotte, rivolte popolari ed insurrezioni contro lo Stato e la sua polizia sono esplose nello spazio pubblico. Contro le mobilitazioni di massa dal basso abbiamo visto coordinarsi insieme la repressione dell'amministrazione Obama, così come quella dovuta alla crescita di una forza ausiliaria reazionaria proveniente dall'estrema destra, a protezione della supremazia bianca, della proprietà privata e dello stesso governo contro l'insorgenza dei neri e le mobilitazioni degli sfruttati e degli esclusi. Trump non farà altro che continuare in questa direzione, tutt'al più rendendo l'America di nuovo grande per le elite proprietarie che la controllano, visto che ha composto la sua amministrazione di vari milionari, amministratori delegati di società, di suoi parenti, portavoce dell'estrema destra e magnati dei media. Risulta davvero sorprendente il fatto che nelle notti successive alle elezioni in decine di migliaia siano scesi in strada con riots, blocchi delle autostrade e cortei di massa contro quello che l'attuale regime ha in mente. Le continue deportazioni di massa, l'ampliamento dei poteri statuali di sorveglianza, controllo, tortura, spionaggio, gli attacchi ai sindacati, alla libertà sessuale, all'educazione politica, alle politiche sociali e altro ancora. Ad incrementare ulteriormente la già crescente ondata di rabbia popolare, Trump ha perso il voto popolare oltre 2,5 milioni di voti. Più della metà del paese non si è neanche preoccupata di gettare una scheda in un'urna, né per l'uno né per l'altro dei candidati, e gli exit poll hanno messo in evidenza il fatto che anche quelli che hanno votato lo hanno fatto pur disprezzando quelli che hanno votato. Noi, quelli che rifiutano il sistema politico come racket organizzato della classe dirigente, noi siamo la maggioranza. Attualmente la piattaforma repubblicana, così come il programma dei 100 giorni di Trump, non fanno che confermare tutto questo. In sostanza Trump promette un attacco generalizzato verso quasi tutti i settori della società, compreso verso gran parte della classe operaia, misure draconiane destinate ai migranti e ai musulmani, e si è visto, dando carta bianca alla polizia e il potenziamento dell'industria estrattiva nonostante l'incombente disastro climatico. In breve, la continuazione e l'accelerazione di tutto ciò che ha portato all'impoverimento e all'impotenza durante gli anni di Obama, di tutto ciò che ha portato il nostro pianeta sull'orlo del disastro ecologico. Ciò che è importante con il Disrupt J20 è come crescere e costruire con quelli che ci sono vicini, spingendo le azioni in avanti in questa giornata e oltre. Si tratta di porre le basi per una resistenza collettiva di massa in questo paese e andare avanti. Si tratta di riportare questa energia rivoluzionaria ed offensiva nelle nostre comunità e di usarla nelle lotte che ci aspettano. Si tratta di organizzarsi, costruire, crescere ed avanzare. In realtà l'articolo prosegue ancora oltre, comunque sia metterò il link, la parte che mi interessava di più era questa, e come al solito la userò per come scusaccia malsana per portare due delle mie musichette buffe, e in questo caso sono, mi viene da dire, due classici, uno vero, nel vero senso del termine, ovvero è una canzone bluegrass degli anni 30 dei minatori di carbone in Kentucky, in questo caso era interpretata da una one man band black metal, ecco. No, è comunque bluegrass, è banjo, okay. non c'è niente di distorto, però in questo caso era interpretata da Panopticon, no, okay. È cantata pulita, che fa black metal, quello che viene chiamato il RABM, ovvero Red and Anarchist Black Metal. Ah, è un personaggio. L'altro invece è un pezzo in realtà di quest'anno, però di un gruppo storico, e sono gli A Tribe Called Quest, che sono un gruppo hip hop di conscious rap, roba così, con il loro, insomma, è l'ultimo singolo del loro, è il primo singolo del loro ultimo album, che si intitola We the People, e che mi, insomma, metto molto volentieri, esatto, mi è stato ispirato, anzi per la precisione, da quella limousine in fiamme che un po' tutti avremo visto, che aveva per l'appunto scritto in oro gigantesco We the People. Nulla, ora si può andare con Panopticon e poi A Tribe Called Quest. Vai. Come all you poor workers, good news to you I'll tell, of how that good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Thank you. bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Se c'è una cosa che non sopporto sono i prepotenti. Solamente? Io non sopporto neanche i rompiscatole. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lab, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain to where the plane she spit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure, take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Handset of living cause I ain't so bold. But hey, all you black folks, you must go. Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all of you bad folks, you must go. The fog and the smog of the media that logs false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we conflict with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the chart. Some of the fucking numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got Jamissi smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hit and with it. To try and be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still, I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Coop on your head, top. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go. Rotto come previsto! E allora dimmi che si è rotto la testa? Contro un albero! Ah, è andato con la testa contro un albero! Magnifico! Tutto rotto! Tutto rotto! Sì, ma essere uno dei nostri che si è andato a rompere, vuoi capire, io? Sì, ma una testa rotta è sempre una testa rotta! Ciao Tasso, ma che c'è? Che guardi? No, aspetta, fammi vedere un attimo una cosa. No, niente, è che visto come vanno le cose, prima o poi mi aspetto un cartello qui, attaccato. attaccato al muro, ho scritto che non si vuole più fumare. No, no, qui vai tranquillo. No, c'è poco da stare tranquilli. Negli ultimi anni c'è stata un'escalation di salutismo. Tutti con la salute di qua, la salute di là. Come se campare fosse la cosa più importante al mondo. La verità è che qui, ridendo e scherzando, ormai gli è 14 anni che non si vuole più fumare nei locali pubblici. Ma poi te lo sai come si chiama la legge? Tutela dei non fumatori. Come se fosse una specie in via d'estinzione, ma ti rendi conto? Quando in realtà siamo noi fumatori che tra un po' ci estingueremo. Già siamo ghettizzati, additati per individuarci meglio. Buona certa, zac! Zac cosa? Zac! Io me l'aspetto prima o poi. Ci avvertiranno prima magari tramite TV, giornali, poi ci arriverà a casa una bella busta dell'Agenzia delle Entrate, imposta sull'inquinamento dovuto al passivo da sigaretta. Non basterà farci pagare la sigaretta sempre di più, non basterà tenerci appedate fuori dai locali hai freddo per fumarci una sigaretta, o farci sentire degli imbecilli mentre proviamo a smettere grazie alle sigarette elettroniche. No, no, ci daranno l'ennesimo colpo di grazia alla vigliacca, perché tanto il fumo è un vizio e un fumatore c'ha il senso di colpa, perché lo sa che fumare fa male, dai, e quindi lo puoi umiliare quanto vuoi, tanto un fumatore non si incazzerà mai abbastanza per far casino, anche perché incomincerebbe a tossire appena alza la voce. Insomma, è una battaglia persa. Sì, è una battaglia persa, è persa perché intanto siamo, penso, all'apogeo di questa leggenda dei bambini che li devi tenere lontano dal fumo di sigaretta e magari si ammalano, gli vengono più possibilità di diventare fumatore quando cresce. Quindi occhio ai neonati, donne gravide e compagnia bella. Come se al bambino piccolo, se gli arriva sotto il naso un po' di passivo, gli scatta il genere presso il fumatore. Appena c'è la possibilità ti viene a chiedere una Marlboro e te gliela dai pure. Non lo so, è come se hai bambino, appena lo porti per strada, ti sente l'odore del gasolio la prima volta e per Natale ti viene a chiedere un triciclo turbo diesel. Non ha senso. Vabbè, i bambini sono suscettibili, in una qualche maniera vanno protetti da certe cose, no? Ma non è vero! Allora, teneteveli chiusi in casa sti figlioli, non ci pensiamo più. Che se un bambino, se non gli fai affrontare le cose, non gliele spieghi per bene, non avrà mai un'idea chiara e sana dell'oggetto. Ma poi è dimostrato, mica me lo sono inventato io, è un bambino, ha grosse probabilità di diventare un fumatore, mica perché gli hai sfiammato vicino, ma perché vive in un ambiente dove ci sono fumatori, è una questione psicologica. Se passi l'infanzia e tieni uno o due genitori che fumano, è chiaro che li emuli, siamo scimmie, mia altro, è normale. Il problema è che nessuno, comunque in pochissimi, affrontano seriamente con gli ignoranti la questione sigaretta, perché se ne vergognano. Scusa, questo è interessante, perché se ne vergognano? Ma è ovvio che se ne vergognano, perché sanno di dipendere da qualcosa, di non essere del tutto liberi, e quindi passare da deboli, da coglioni, disturba un po' a tutti, al massimo uno ci fa una battuta sopra. Ma poi anche perché sapendo che tanto bene fumare non fa, è difficile ti poni a quel punto un avvocato del diavolo, addirittura a un bambino gli fai tieni, senti quanto è buona questa sigaretta. Se ti vedono ti pigliano per pazzo, ti minano, chiamano le guardie, lo sai che moralmente sei nel torto. Allora secondo te non sarebbe meglio smettere? Non è giusto, in fin dei conti, una linea che disincentivi l'uso delle sigarette? Ma certo che no, ma che stiamo scherzando? Ma come? Perché? Ma perché il problema è proprio morale. Innanzitutto mi pareva che si fosse tutti d'accordo e per quello che riguarda il proprio corpo ognuno gli era libero di fare il che voleva. Cioè stiamo scherzando, io non posseggo nulla di reale a parte il mio corpo e non sarò libero di fumare, bere, tatuarmi, forarmi, pomparmi, mangiare fino allo sfinimento perché magari mi dà soddisfazione. Ma chi me lo può vietare? Ma io vengo a dirti che sei grasso, non ti si può vedere, occupi pure più spazio sui bus, oppure che da quando ti pompi sei ridicolo, non ci rimanco più il collo, non ti stanno più vestiti. Ma magari sì, te lo vengo pure a dire, è una questione di libertà di espressione, ma di certo non vengo a vietartelo, chi sono io per giudicare quello che ti piace fare o essere, ci avrai i tuoi motivi e non sta a me sindacare. Perché alla fine il concetto è pure questo, il fumatore se continua a fumare sì per la nicotina, la dipendenza, lo sappiamo che pure le sigarette sono una droga e nemmeno fra le migliori. Però due conti, il fumatore se li è fatti, in una maniera o nell'altra ci perderà di salute, ma sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, ogni volta che fumo una sigaretta considero che sto risparmiando la vita di una persona, c'è un guadagno di tranquillità. Ma vogliamo pure procedere per assurdo? Procediamo. Ma il fumatore fa girare pure l'economia. Ma ci pensa al giro di miliardi che ci stanno, non solo intorno al commercio del tabacco e al tiro da fumo, quanto proprio a tutto l'apparato medico e paramedico? E a quelli che proprio gli va male e che si ammalano e ci rimangono secchi? Ma ci pensiamo. Gli dai lavoro te a infermieri, medici e becchini al posto loro? pensiamo che la gente lo stipendio lo trovi sugli alberi. Ma il fumatore andrebbe tutelato, da lavorare e al contempo libera posti, crea posizioni in senso trasversale del termine, ti pare poco. Le istituzioni dovrebbero creare delle agevolazioni per far sì che si possa fumare non dentro i locali, ovunque, anche vicino a materiali infiammabili. Sai mai moltipli le possibilità di profitto. Ok, meno male che procedevamo per assurdo. Qui qualcuno sta iniziando ad avere delle strane espressioni. Ma sì, dai, si fa per scambiare due battute, anche per divertirsi. Che poi, fin dei conti, il concetto veramente assurdo è che, parliamoci chiaro, i non fumatori, che ci dicono sono la stragrande maggioranza, hanno da 14 anni una legge che li tutela. Ecco, e questo mi sembra un po' assurdo. In che senso? No, nel senso che, detto in soldoni, è come se in una stanza ci fossero 10 persone, due iniziano a fumare contro la volontà e la salute, vabbè, per carità, degli altri 8. E questi, per fargli smettere di fumare, incaricano uno fra loro che glielo vieti e gli prenda dei 25 e 250 euro secondo le circostanze ogni qualvolta trasgrediscono. Percepisci come artificiosa questa cosa? Un po', ma come faresti se no? Ma come faresti? Ma il discorso è questo, intanto è una questione di educazione. Se ti chiedono gentilmente di non fumare lo puoi fare, ma fondamentalmente nessuno pensa all'ovvio. Cioè? Ma guardiamoci intorno. Fra smog, rifiuti, deforestazioni, radiazioni, adulterazioni, scarie vari, disastri ambientali, stiamo a pensare alle sigarette. Che da una boccata d'aria fuori è sicuro che ti becchi qualcosa, ma svegliamoci, non prendiamoci in giro. Beh, a questo punto rimaniamo sull'ovvio. Offrimi un cicchino, via, e godiamoci. E poi detto tra di noi, oh, la sigaretta completa il momento. E allora via, cicchino e sigla. Rieccoci qua. Rieccoci, dopo sì. Una sfilza di rubrica. Super sfilza. Shuriken proprio. Siamo però Shuriken arrivati rubrica. Shuriken rubrica, sì. Vabbè. Mostra segreta. Se vuoi. Siamo arrivati addirittura ad arrivo. Esatto, sì. Esatto. Ci manca un ultimo elemento forse. Un ultimo elemento, perché comunque non possiamo lasciare l'inizio della settimana senza un detto, no, della settimana. Anche se siamo leggermente più lunghi del solito, è importante. Che c'è Puttatine. Quindi ci mandiamo il detto del giorno, poi direi anche l'ultimo pezzo per salutarci e poi ci salutiamo. E poi ci salutiamo definitivamente. Bello. Sì, sì, sì, sì. Detto del giorno. Eccoci anche oggi con il detto del giorno. Ciao Lillo. Ciao. Ciao. Allora, ciao, buonasera a tutti. Che ci racconti oggi? Allora, dunque, oggi vi racconto. Intanto sapete bene in che giorni siete, abbiamo fatto la lezione l'altro giorno. Assolutamente. Abbiamo spiegato l'altro giorno i giorni della merla, ora oggi siamo nel cuore dei giorni della merla, perché oggi è il 30, e infatti fa caldo, fa caldo. Non torna mai niente. Non torna, esatto. Questa cosa potremmo prenderlo come esempio per dire che insomma le tradizioni e i detti popolari possono scazzare tranquillamente. Oppure l'eccezione è confermare. Oppure si può anche dire che magari il clima è variato, non ci sono più le stagioni di una volta. Ma anche è vero, però è il 30 lunedì 30 gennaio, forse è il giorno più caldo di gennaio fino più adesso. Caldo di gennaio, è sempre sì. Un freddo meno. Quindi dici, sì. Ha comunque il primato. E quindi questa merla. Ma magari quest'anno la merla è venuta prima. Magari sì. Sarà un po' prima. Magari sì. Vabbè, comunque. Per continuare sulla falsa riga del giorno della merla, io vi propongo un detto invece che è proprio di un giorno preciso, che è il 2 di febbraio, che sarebbe la candelora, va bene? Ah, giusto. Il detto è un detto che prevede appunto l'andamento del tempo nel prossimo, diciamo nella fine dell'inverno, e recita così: Per la santa candelora, se nevica o se plora, dall'inverno siamo fuori. Se c'è solo il solicello, siamo ancora a mezzo inverno. Quindi, il 2 che mi sembra sia venerdì, se non mi sbaglio, il 2 di... Sì, dovrebbe essere venerdì. Il 2 di febbraio. No. Il 2 di febbraio, giovedì, ok, tenete bene a mente. Quindi, se giovedì nevica oppure piove, l'inverno, siamo fuori dall'inverno, quindi l'inverno è finito, sarà già un inizio di primavera, febbraio. È piovigina in questo istante. In questo istante è piovigina, sì, però bisogna aspettare febbraio. Ah già, giusto. Sì, Se invece c'è sole oppure solicello, dura perché siamo ancora. Dovete considerarlo più o meno come giorno della merda. Per dire, l'anno scorso l'ha scazzato Candelora. Secondo me, io ci ho fatto caso l'anno scorso. E non funzionava. No, per niente. La Candelora non funzionava. Però, boh, magari. Oppure vediamoci ciecamente e poi rimaniamo delusi tremendamente. Sì, a voi la scelta, ascoltatori. Va bene. Niente, questo. Addio. Alla prossima settimana. Ciao Lillo. Ciao. Rieccoci qua, sì, sorpresa. Surprise. Dopo il detto della settimana, come dicevamo poc'anzi, mandiamo anche l'ultima canzone. Però, attenzione, vi salutiamo anche direttamente. A questo punto vi salutiamo e subito mandiamo la sigla immediatamente dopo. Ci sentiamo la settimana prossima, ringraziamo sì. Tutti quelli che ascolteranno questo podcast. E anche quelli che sono stati qua, dicevo. Ah, sì, grandi. Scusa. Grazie a tutti. Giusto, sì, grazie a tutti, sempre. Viva. Mandate il Totomorti. Mandate il Totomorti. Le ricette e le richieste. Sempre a posto Wombat in Siberia.net. Esattamente. E via, dai. E ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Viva. Chissà perché le cose succedono quando uno si impegna a respingerle. Vacanze su sfondo adriatico, io cercavo di tornare celibe, ho accettato l'invito da impavido, però poi non ti ho dato il mio numero, ero quasi convinto a non cedere, però hai insistito a chiederlo tu. Dopo ho cercato di evitarlo, ma non è servito a niente, no, non mi hai lasciato scampo, e avevi già ragione tu. Lo so. Non è stato un granché, devi ammetterlo, come inizio la storia fra me e te. Io non facevo altro che piangere, e motivi ne avevo a prescindere. Mi ricordo un regalo simbolico, in quel primo Natale difficile. Era un quaderno vuoto da scrivere, un futuro in forma di pagine bianche. Ho cercato di evitarlo, ma non è servito a niente, no, non mi hai lasciato scampo, e avevi già ragione. Convivenza, amore, uxorio, fai pressione solo a dirlo, mi hai concesso il latinismo di provare a vivere con me sempre. Go how Paul Berry. Radio Wombat.